Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Scienza e follia. Ecco uno degli abbinamenti che nel corso dei secoli ha avuto maggior successo, praticamente un consenso universale. Chi non ha sorriso di fronte all'immagine di Albert Einstein che mostra la linguaccia all'obiettivo del fotografo? E chi soprattutto non ha pensato che la massa scompigliata dei suoi capelli bianchi sottintenda che quello stesso disordine si trovi anche all'interno e non solo all'esterno della sua testa? La letteratura mondiale ci ha abituati allo stereotipo dell'inventore pazzo, della scoperta scientifica al limite della ragione. Dal Faust di Goethe alla duplice personalità del dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Robert Stevenson, la visione della scienza è quella di un perverso delirio destinato a infrangersi tra le provette di un laboratorio. Per non parlare poi del cinema, che ha sguazzato per decenni nell'argomento creando figure come l'inquietante dottor Stranamore di Stanley Kubrick o il geniale Doc Emmett Brown del Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Per arrivare a Frankenstein Jr., esilarante parodia dell'omonimo mostro partorito dalla fantasia di Mary Shelley. Dimmi, quel cervello che mi hai portato era di Hans Delbruck? No. Ah. Bene. Ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che io ho messo dentro? Non si arrabbierà, eh? No, io non mi arrabbierò. Abbi qualcosa. Abbi qualcosa. Abbi chi? Abbi norme. Abbi norme? Sono quasi sicuro che era quello il nome. Vorresti dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante? Canaglia! È questo che vorresti dirmi? La figura dello scienziato fuori di testa non è in realtà la prassi. Nella vita reale i ricercatori sono persone come tutte le altre, con orari di lavoro, famiglia, devono fare i conti con lo stress, le bollette da pagare, né più né meno come ciascuno di noi. Ma tant'è, chi si dedica anima e corpo alla scienza mette in conto di venire spesso guardato quantomeno con sospetto, come il giovane uomo che in questo momento sta salendo le scale di casa sua ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, e sente sulla schiena lo sguardo penetrante della sua vicina di appartamento che sta uscendo. A lei proprio non va giù che lui faccia qualche piccolo esperimento fra le quattro mura di casa sua. Ha sempre paura che un giorno o l'altro quello strano tipo faccia saltare il palazzo. Il giovane è molto schivo, quasi timido, non dà confidenze e questo contribuisce a fare di lui un personaggio misterioso. In realtà è semplicemente un medico. Il suo nome è Camillo Golgi. Camillo Golgi. È vero, ha portato su in casa qualche provetta, alcune beute, dei matracci, ma soprattutto un microscopio. Ma niente di grandioso e soprattutto niente di pericoloso. Avevo allestito un piccolo laboratorio di istologia in cucina. Era molto funzionale e ci lavoravo bene, visto che avevo vinto il concorso di primario chirurgo indetto dall'Istituto delle Pie Case degli Incurabili di Abbiategrasso. Mi era stata data facoltà di fare esperimenti anatomo-psicologici. Lo abbiamo sentito. Camillo Golgi ha appena vinto un concorso di primario chirurgo. È il 1872 e lui ha soli 29 anni, è un giovane medico di belle speranze, arrivato da pochissimo ad Abbiategrasso dalla Val Camonica. Corteno, comune dell'Alta Val Camonica, in provincia di Brescia, nel 1843, quando nasce Camillo Golgi, fa ancora parte della provincia di Bergamo sotto il regno lombardo-veneto. Vicino all'Aprica, sulla direttiva verso Ponte di Legno e il Tonale, Corteno è un paese di 2000 anime, delle quali il papà di Camillo, Alessandro, è il medico condotto. Quel figlio maschio lo fa sognare. Chissà se vorrà seguire le orme paterne, se un giorno anche lui sarà il punto di riferimento di tante persone, di tante famiglie. È bello sentirsi così importante per quella gente come solo il medico di famiglia può essere. E Alessandro cresce Camillo con il suo stesso spirito di curiosità e di voglia di aiutare il prossimo. Tanti figli rifiutano di intraprendere la carriera del padre, temono magari il confronto, oppure sono stufi di sentire parlare sempre dello stesso argomento. Ma non Camillo. Suo padre è molto bravo a instillare in lui l'amore per la sua professione. La medicina lo affascina e fin da piccolo sfoglia quei libri più grandi di lui alla ricerca delle tavole colorate che mostrano il corpo umano. Non ci sono dubbi. Il suo sogno è diventare anche lui un medico e quindi, dopo il liceo classico, si iscrive alla facoltà di Pavia. Da bambino volevo guarire i ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti. La salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco. Per questo giurai che avrei fatto il dottore, e non per un dio, ma nemmeno per gioco. Perché i ciliegi tornassero in fiore, perché i ciliegi tornassero in fiore. Camillo Golgi è uno studente brillantissimo. Si laurea in medicina in anticipo a soli 22 anni. E la tesi sull'eziologia delle malattie mentali la sostiene con un personaggio davvero molto particolare, di certo un nome che tutti conosciamo bene, Cesare Lombroso. Medico e antropologo di fama mondiale, Lombroso è considerato il padre della moderna criminologia per i suoi studi sulle caratteristiche anatomiche dei pazzi e dei delinquenti, che egli studia per anni e che lo portano a formulare diverse tesi legate alla fisiognomica, alla frenologia, secondo le quali a una certa conformazione del cranio corrisponderebbe una propensione a delinquere. Oggi le teorie di Lombroso sono per la maggior parte superate dalla moderna scienza, che ha dimostrato come non esista in realtà un nesso fra una determinata forma del cranio e la deviazione criminale o la follia. Ma è indubbio che i suoi studi siano stati degli apripista determinanti per figure come Freud o Jung e per i loro studi sulla psicanalisi applicata alla società. Il criminale è un essere atavistico che riproduce sulla propria persona i feroci istinti dell'umanità primitiva e degli animali inferiori. Il pensiero di Cesare Lombroso si può racchiudere genericamente in questa sua famosa frase che influenza sicuramente il giovane Camillo Golgi. Mentre riceve il diploma di laurea a Pavia e osserva con una certa commozione la gioia stampata sul volto di suo padre, che vede coronarsi il suo sogno di avere un figlio medico come lui, Camillo è convinto di poter impiegare con grande profitto gli insegnamenti del suo relatore di tesi. È certo che in qualità di medico condotto di un qualche paese, come quello dove è nato lui e dove esercita suo padre, gli saranno molto utili le teorie del professor Cesare Lombroso, se non per identificare i delinquenti, che lui spera vivamente di non incontrare mai, anche solo per comprendere alcune predisposizioni, per esempio alla violenza, che sono un fenomeno molto più diffuso di quanto si possa pensare. In realtà la vita sceglie diversamente per lui. Il suo primo impiego, che è una naturale continuazione della sua condizione di studente universitario appena laureato come ricercatore, lo porta nel laboratorio a Pavia di Giulio Bizzozzero, illustre medico considerato universalmente il padre dell'istologia italiana e uno dei precursori della medicina preventiva. Anche se con Bizzozzero rimasi poco, fu lui a trasmettermi l'amore per l'istologia, che da quel momento non mi abbandonò mai più. Lo studio dei tessuti, delle cellule e in particolare dei fasci nervosi mi affascinò subito, perché in essi vedevo l'essenza stessa della vita. Con Bizzozzero rimane poco. Camillo adora la ricerca, con gli occhi fissi nel microscopio si sente felice, osserva, scandaglia, indaga, ma guadagna poco. Suo padre lo sprona a cercarsi un'attività più sicura e redditizia. «Dovrai pur mettere su famiglia prima o poi», gli dice. Così Camillo tenta il concorso per un posto di primario chirurgo presso le Pie Case degli Incurabili di Abbiate Grasso, in provincia di Milano. L'ospedale, fondato nel 1785 nell'ex monastero femminile di Santa Chiara, è un'eccellenza in Lombardia e sarebbe un ottimo posto. Siamo lieti di comunicare che il concorso da noi indetto per la posizione di primario chirurgo è stato vinto per graduatoria nei punteggi dal dottor Camillo Golgi. Nel complimentarci per il risultato ottenuto, attendiamo impazienti l'insediamento presso la nostra Pia Casa. Camillo Golgi sta leggendo a suo padre il telegramma giuntogli a Pavia da Abbiate Grasso. È tornato a trovarlo a Corteno, apposta, per avere da lui un consiglio. I suoi sentimenti sono contrastanti. Da un lato è felice e orgoglioso del risultato ottenuto, dall'altro gli spiace lasciare il laboratorio del professor Bizzozzero e le sue ricerche di istologia. Ma il sorriso di suo padre non gli lascia dubbi. In fondo, in valigia, il suo microscopio ci sta. L'appartamento che gli riserva l'ospedale di Abbiate Grasso non è grande, ma c'è tutto il necessario. Camillo si sta guardando intorno. La cucina è perfetta per organizzarci il suo laboratorio personale, un microscopio e pochi strumenti semplici, quasi rudimentali. Ma è quanto basta per proseguire le sue ricerche di istologia. E così il nostro giovane medico di giorno lavora all'ospedale, ma la sera, nella pace e nel silenzio del suo appartamento, inizia qualcosa di assolutamente unico. La sua materia di analisi è il sistema nervoso. Non si sa molto di questo intricato apparato che ha un ruolo così fondamentale nell'esistenza degli esseri viventi, ma lui vuole saperne di più. Vorrebbe trovare un modo, un sistema comodo per evidenziare le cellule nervose, per fissarle e poterle studiare. La sua intuizione è grandiosa. Per evidenziarle, deve colorarle. Il suo metodo è complesso, prova e riprova per mesi e infine arriva a un risultato ottimo. Una sezione di sistema nervoso viene immersa in una soluzione di bicromato di potassio per oltre 50 giorni. Poi riposa in un'altra soluzione di nitrato d'argento. E infine viene disidratata con alcol etilico. Il preparato così ottenuto viene tagliato in sottilissime fettine di circa 100 micron di spessore per essere poi osservate al microscopio. Nel campo microscopico risultano perfettamente visibili le cellule nervose, i neuroni e gli organuli in esse contenuti, colorati di nero su fondo chiaro. Mentre scrive i suoi appunti, Camillo Golgi è elettrizzato. Il suo metodo appare immediatamente eccezionale. Per qualche fortunata ragione, non tutte le cellule nervose si colorano, ma solo alcune. Questo permette di visualizzarle in maniera perfetta anche in tutte le loro ramificazioni. Se si colorassero tutte, non si distinguerebbero l'una dall'altra, essendo numerosissime, e si vedrebbe solamente una massa nera informe. A tutt'oggi non è ben chiara la motivazione di questo fatto. Il grado di impregnazione del colore dipenderebbe dallo stato metabolico del neurone e dalla particolare funzione che esso esplica nel momento in cui il tessuto è sezionato. Poco importa. Quello che conta è che la fortuna sia dalla parte di Camillo Golgi. L'impregnazione argentica, subito ribattezzata reazione nera, il rivoluzionario metodo di colorazione delle cellule nervose e della loro struttura organizzata, messo a punto da Camillo Golgi, viene presentata in un articolo pubblicato sulla Gazzetta Medica Lombarda Italiana il 2 agosto 1873. La relazione è chiara e spiega per filo e per segno i procedimenti che il medico ha impiegato. Eppure nessuno sembra dare grande importanza a questa scoperta. Camillo Golgi è sorpreso più che amareggiato. In realtà non si spiega il motivo di questa mancanza di interesse nel suo esperimento. Ma questo non può di certo fermarlo. Lui sa molto bene di essere nel giusto. Sa soprattutto che la reazione nera permette di studiare finalmente con facilità le cellule nervose. È il primo passo verso la conoscenza più completa dell'apparato nervoso degli esseri viventi, che fino ad ora nessuno è mai riuscito a studiare veramente. Fino ad oggi non si conosce nessun procedimento che mostri con tanta perfezione le cellule nervose degli organi centrali. Rudolf Albert Kölliker, istologo svizzero-tedesco di fama mondiale, elogia in modo incondizionato il lavoro del suo collega italiano Camillo Golgi. Peccato che siano passati ben 14 anni da quel 2 agosto 1873, quando la scoperta della reazione nera viene descritta tanto minuziosamente dal suo inventore sulle pagine della Gazzetta Medica. 14 anni in cui i meriti sperimentali di Golgi non vengono riconosciuti. Sarebbe interessante cercare di capire il perché. Sì, è vero che in quegli anni vengono proposte numerose tecniche istologiche e quella del nostro protagonista è una delle tante. È anche vero che l'esperimento, se viene compiuto da mani inesperte, può fallire. E va aggiunto che in fondo le riviste sulle quali Camillo Golgi pubblica i suoi risultati non sono organi di informazione internazionale, ma solo giornali poco più che regionali. Per noi oggi appare quasi incomprensibile. Una scoperta della portata di quella di Camillo Golgi occuperebbe tutti i giornali, monopolizzerebbe le televisioni, spopolerebbe sul web. Ma dobbiamo considerare che tra il finire dell'Ottocento e il primo cinquantennio del Novecento vedono la luce un numero impressionante di invenzioni e di scoperte dell'umanità. E molte di queste non vengono recepite immediatamente, magari impiegano anni prima di diventare di dominio pubblico. Nel frattempo Camillo Golgi non si è fermato. È uno che non si scoraggia lui, uno che guarda dritto davanti a sé senza tentennamenti. Grazie alla sua reazione nera può proseguire nello studio delle cellule nervose, dei neuroni che si mostrano a lui come una fitta intricata foresta. Un paragone che troverà d'accordo anche Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986. La giungla che mi si presentava davanti era più affascinante di una foresta vergine. Si trattava del sistema nervoso con i suoi miliardi di cellule, aggregate in popolazioni le une differenti dalle altre e rinserrate nel viluppo apparentemente inestricabile dei circuiti nervosi che si intersecano in tutte le direzioni nell'asse cerebro-spinale. Una giungla intricata. La definizione di Rita Levi Montalcini è più azzeccata che mai. Mentre nel silenzio della sua cucina osserva una serie di neuroni con le loro relative diramazioni colorate di nero grazie alla sua impregnazione argentica, Camillo Golgi sta pensando proprio a una foresta di rami avviluppati tra di loro, a una fittissima rete che connette i neuroni gli uni agli altri. Il suo pensiero analitico lo porta inevitabilmente a concepire che l'impulso nervoso passi da un neurone all'altro proprio grazie a questa rete di collegamento. I suoi studi non si fermano però soltanto alla ricerca. Ricordiamoci che Golgi è un medico e nonostante all'apparenza sia un tipo freddo, quasi distaccato, in realtà è un uomo appassionato del proprio lavoro di chirurgo, sente profondamente l'importanza della sua missione tesa a guarire il prossimo. Proprio grazie all'applicazione delle sue innovative tecniche istologiche e alla rivoluzionaria reazione nera, Camillo Golgi fa un'altra scoperta fondamentale, legata a una delle malattie più diffuse e gravi di quegli anni, la malaria. Esaminando il plasmodio malarico e analizzando il ciclo vitale del parassita che scatena le febbri, il ricercatore scopre la correlazione tra la sua riproduzione e l'ascesso febbrile, svelandone il mistero dell'intermittenza. Ma soprattutto definisce i termini della cura, formulando quella che oggi viene chiamata proprio la legge di Golgi, che stabilisce il momento giusto della somministrazione del chinino agli infetti. La sua intuizione si rivela corretta. Il parassita malarico va trattato col chinino in un preciso momento del suo ciclo vitale. Così facendo gli ascessi febbrili si riducono, i malati stanno decisamente meglio. È una grande soddisfazione per Golgi. Le sue scoperte, raggiunte nelle solitarie notti trascorse ad Abbiategrasso, danno frutti insperati. Tornato dopo una decina di anni a Pavia dal suo primo mentore, il professor Giulio Bizzozzero, del quale Camillo sposa anche la nipote Evangelina, le sue ricerche possono continuare più assidue che mai. Finalmente iniziano a circolare i primi articoli sulla sua reazione nera, quella scoperta tanto incredibile quanto rivoluzionaria che all'estero, come spesso accade nel nostro paese, trova un interesse maggiore che in patria. Ed è proprio in una notte del 1887, molto lontano da Pavia, per l'esattezza a Madrid, che qualcuno sta osservando per la prima volta alcuni neuroni colorati con il metodo della reazione nera di Camillo Golgi. Qualcuno che stenta a credere ai propri occhi. Destini incrociati. Madrid, 1887. Notte fonda. La casa del noto psichiatra Luis Simaro Lacatra è avvolta dall'oscurità e dal silenzio. Eppure non tutti dormono, anzi, nello studio del dottore ferve un'attività frenetica. Un giovane uomo si alterna al padrone di casa nell'osservazione di qualcosa di stupefacente, che si mostra in tutta la sua magnificenza agli occhi attenti dei due uomini. Occhi tuffati con famelicità dentro un microscopio. Stanno guardando un vetrino che il professor Simarro ha trasportato per chilometri e chilometri con la cura riservata a un tesoro inestimabile. Quel vetrino ha più di 14 anni. A tanto in là nel tempo risale infatti la serie di operazioni effettuate da un ricercatore italiano la cui fama sta per conquistare il mondo. Quel ricercatore è il protagonista della nostra puntata di oggi di Destini Incrociati. Il suo nome è Camillo Golgi. Nel 1873, nel ristretto spazio della sua cucina, nell'appartamento di Abbiategrasso, in provincia di Milano dove risiede, Camillo Golgi, medico chirurgo e ricercatore, mette a punto una scoperta incredibile, la cosiddetta reazione nera. Appassionato di istologia e desideroso di conoscere la conformazione dei tessuti nervosi, Golgi individua un tipo di colorazione che evidenzia con un netto color nero i neuroni e la loro struttura reticolare organizzata. Si tratta di un procedimento geniale, unico, che per la prima volta consente di studiare le cellule nervose e il loro funzionamento. Ma per quanto rivoluzionaria e incredibilmente utile alla scienza, questa invenzione di Golgi non ottiene il riconoscimento che meriterebbe e per ben 14 anni rimane relegata nell'oblio fino a quando non ne viene finalmente compresa tutta l'importanza. È proprio uno dei vetrini di Golgi che lo psichiatra Luis Simaro Lacatra sta mostrando a un suo amico e collega spagnolo che non sta più nella pelle. È incredibile, è assolutamente geniale. Ma professore, si rende conto? Possiamo studiare i neuroni, scoprirne il funzionamento. Siamo a un passo dal comprendere i meccanismi che regolano la trasmissione degli impulsi nervosi. Questo significa anche arrivare a comprendere il meccanismo della memoria, del pensiero stesso. È una rivoluzione filosofica, non solo scientifica. L'uomo che non riesce più a staccare gli occhi dal microscopio e che parla in maniera tanto entusiastica di Camillo Golgi e della sua grandiosa scoperta è un personaggio particolarissimo, dal carattere estroverso, geniale, completamente antitetico al misurato e schivo Camillo Golgi e che è destinato ad interfacciarsi con il grande istologo per molti anni. È il secondo personaggio della nostra puntata di Destini Incrociati e il suo nome è Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal. Il ricercatore spagnolo sta osservando il vetrino di Golgi che il professor Simarro ha riportato con sé da un viaggio a Parigi, dove ha avuto un importante incontro con alcuni studiosi di istologia di fama mondiale. In quel preciso momento, nel silenzio della casa madrilena del grande psichiatra, Santiago Ramón comprende la solennità di quell'attimo. I suoi occhi vagano tra gli intricati volteggi del sistema nervoso colorato da Camillo Golgi, come devono aver fatto i primi esploratori europei nelle incontaminate foreste vergini dell'Amazzonia. Una sensazione che anni dopo riporterà nella sua autobiografia Recuerdos de mi vida. Fu nella casa del dottor Simarro. Per la prima volta ebbi l'opportunità di ammirare le famose sezioni di cervello impregnate con la colorazione argentica del dotto di Pavia. Il dotto di Pavia. Così Santiago Ramón chiama Camillo Golgi, l'uomo per il quale egli prenderà la seria decisione di dedicare la sua vita alla ricerca istologica. Eh sì, perché in realtà quando Santiago vede per la prima volta il vetrino di Golgi, se ne interessa per un motivo diverso da quello della ricerca. Vuole vedere come sono fatti i neuroni semplicemente per disegnarli, perché lui è un grandissimo illustratore. Il villaggio di Petilla si trova in Aragona, nel nord-est della Spagna. Santiago Ramón y Cajal nasce qui, nel 1852. Anche suo padre, come quello di Camillo Golgi, è il medico del paese. E anche lui spera tanto che il figlio segua le sue orme. Il suo studio è molto ben avviato, e di lavoro ce n'è tanto. Il ragazzo avrebbe una professione assicurata. Ma per ora Santiago non ha in mente di diventare medico. In realtà adora disegnare. Il suo talento è innato. Nessuno gli ha mai insegnato come fare, ma le sue capacità nelle arti visive sono sorprendenti. Nonostante sia un ragazzo volitivo, egocentrico, pieno di energia, un tipo ribelle, si potrebbe dire, Santiago comprende che diventando medico potrebbe lavorare con profitto insieme al padre. E così si iscrive a medicina all'Università di Saragozza. Man mano che i suoi studi proseguono, però, la sua curiosità e il suo senso di interesse visivo per le cose lo portano ad amare incredibilmente quello che impara. Si diletta a disegnare tavole anatomiche di grande bellezza e precisione e in qualche maniera riesce a unire la sua passione per il disegno con i suoi studi di medicina. Dopo la laurea, giovanissimo, a soli 22 anni, Santiago deve fare il militare e in qualità di ufficiale medico viene spedito a Cuba. Qui le condizioni igienico-sanitarie lasciano molto a desiderare e il giovane dottore contrae sia la malaria che la tubercolosi, a causa delle quali viene rimandato a casa. Inizia così la sua carriera accademica come professore ausiliario di anatomia presso la sua stessa università. Ma ha un sogno che spera di riuscire presto a realizzare. Vuole comprarsi un microscopio, che però all'epoca è un oggetto costosissimo. Il mondo dell'infinitamente piccolo lo affascina in maniera totale. Disegnare le cellule, le minute particelle che compongono i tessuti, è per lui quanto di più interessante esista al mondo. Per fortuna ha accumulato una piccola fortuna con lo stipendio di medico a Cuba. Con quei denari riesce ad acquistare un vecchio microscopio che gli consente di iniziare la sua attività di ricercatore. Avevo speso fino all'ultima peseta e quel microscopio non valeva niente. Cambiò tutto quando mi dettero la cattedra di Valencia e il governo provinciale mi assegnò uno stupendo e modernissimo microscopio Zeiss. E in realtà era un ringraziamento per i miei servigi durante l'epidemia di colera che si era abbattuta sul distretto. La passione per la microbiologia, per lo studio dei tessuti e contemporaneamente per la loro rappresentazione in tavole precisissime e accurate, oltre che bellissime, porta Santiago Ramón a diventare professore di istologia patologica all'Università di Barcellona nel 1887, quello stesso anno in cui il noto psichiatra Luis Simaro Lacatra lo invita a casa sua a Madrid a visionare il preziosissimo vetrino di Camillo Golgi. L'incontro fra i due istologi avverrà fisicamente solo molti anni dopo, ma è quella notte a Madrid che le scoperte di Camillo Golgi cambiano per sempre la vita di Santiago Ramón y Cajal, che a sua volta è destinato a influenzare in maniera determinante la vita del grande ricercatore italiano, grazie alle sue scoperte. Destini incrociati. Mi bastò uno sguardo e fui immediatamente catturato da quello che vidi. Le cellule nervose apparivano colorate di nero fino nelle loro ramificazioni più infinitesimali. Spiccavano con una nitidezza incomparabile su un fondale giallino che le metteva in evidenza ancora di più. Santiago Ramón y Cajal, medico istologo e disegnatore spagnolo, non ha dubbi. Quello che sta osservando al microscopio è davvero unico. Le cellule nervose colorate con il metodo della reazione nera inventato dal suo collega italiano Camillo Golgi si rivelano chiarissime e si possono finalmente studiare con facilità. La reazione nera, sperimentata da Golgi ben 14 anni prima, nel 1872, diventa la tecnica principale dello studio di Santiago Ramón, il quale ne è rapito totalmente. Le immagini al microscopio gli ispirano numerose tavole che sono ancora oggi considerate assolutamente attendibili. Santiago è un valentissimo illustratore e nel corso degli anni ha affinato una tecnica di raffigurazione del corpo umano e dei suoi organi davvero invidiabile. Ma gli studi di Golgi rappresentano molto di più di questo per il giovane medico spagnolo. Egli inizia ad appassionarsi talmente tanto all'istologia dell'apparato nervoso degli esseri viventi da studiarne ogni minimo dettaglio, fino a giungere in breve tempo a formulare un'interessante teoria sul suo funzionamento. Ironia della sorte, però, la sua teoria si rivela essere diametralmente opposta a quella di colui che, per così dire, la scatena. Cominciarono a emergere alcuni nuovi fenomeni molto interessanti. L'osservazione mi portò a trovarmi in uno stato di febbrile attività perché quello che stavo scoprendo era molto diverso da quanto enunciato da Golgi e volevo essere assolutamente certo delle mie teorie. Santiago Ramón sta studiando le cellule nervose della retina, del cervelletto, del midollo spinale. Le ha evidenziate in maniera eccellente grazie alla scoperta di Camillo Golgi, ma i risultati ai quali sta arrivando sono opposti a quelli del grande ricercatore italiano. Golgi sostiene infatti che le cellule nervose sono unite tra di loro da una fitta rete e che trasmettono l'impulso attraverso di essa per continuità. Santiago Ramón si convince invece che la fitta rete di cui parla Golgi non esista affatto, ma che ciascuna cellula nervosa sia a sé stante e trasmetta l'impulso per contiguità attraverso le sinapsi, impulsi di natura chimica o elettrica. È l'ottobre del 1889. Benché non abbia mai lasciato la Spagna, eccetto durante il servizio militare a Cuba, Santiago Ramón y Cajal supera la sua reticenza a spostarsi e parte per Berlino. È talmente convinto delle sue teorie sui neuroni e sul loro sistema di trasmissione degli impulsi nervosi che ha deciso di recarsi di persona al congresso della Società Tedesca di Anatomia per mostrare i risultati dei suoi studi ai massimi esperti del settore. Le sue teorie trovano immediatamente il consenso della maggior parte degli scienziati presenti, in particolar modo dell'eminente istologo svizzero Rudolf Albert Kölliker, che solo due anni prima aveva contribuito a far conoscere al mondo la reazione nera. Ma in questa sede e nell'ambito della disputa che si sta delineando fra il giovane spagnolo e Camillo Golgi, Kölliker si schiera senza alcuna esitazione con Ramón. Golgi, personalità estremamente pacata e serena, risponde con una lettera pubblicata su una rivista tedesca. Ho di questo giovane ricercatore Ramón y Cajal la massima considerazione e, come ho ammirato la sua grande attività ed iniziativa, così apprezzo l'importanza delle sue originali osservazioni. Le divergenze tra le conclusioni sue e mie non hanno né potrebbero avere riflesso di sorta su questi miei sentimenti, essendo io anzi profondamente convinto che se fatti divergenze con lo spingere alle indagini riescono sempre proficue alla scienza. Nobody said. Camillo Golgi è un ricercatore defilato, un medico serio, studioso. Si dedica anche alla politica, o per meglio dire all'amministrazione pubblica, ricoprendo la carica di assessore all'igiene del comune di Pavia. Viene nominato anche rettore dell'università, ma questi incarichi prestigiosi non possono distoglierlo dal suo primo amore, la ricerca. Nel 1898 i suoi studi sulla cellula lo portano alla scoperta dell'apparato reticolare interno, che da allora in poi e per sempre diventa noto con il nome di apparato di Golgi. È una scoperta sensazionale, soprattutto se si pensa che avviene 50 anni prima dell'invenzione del microscopio elettronico, che la confermerà in pieno. Diametralmente opposto è il suo antagonista, Santiago Ramón y Cajal. Estroverso, eclettico, brillante, mondano, Santiago è un ricercatore focoso che alimenta la disputa con Camillo Golgi. Le sue affermazioni sono così categoriche da far discutere un'intera generazione di istologi. Ma non solo quelle fanno discutere. È un personaggio molto particolare. Oltre alla sua autobiografia dai toni accesi, scrive un'opera di carattere didascalico, avente come argomento le modalità da seguire per ottenere un sicuro successo professionale. L'opera in questione, molto popolare in Spagna, si intitola Rea y Consejo para Investigación Científica, regole e consigli per l'indagine scientifica, nella quale elargisce originali suggerimenti a chi vuole dedicarsi alla ricerca. E il mio consiglio è quello di scegliersi una moglie ricca, per mettersi a riparo dalle difficoltà economiche cui può andare incontro l'incauto sperimentatore. Indipendentemente dai diversi caratteri e stili di vita, ad esempio, Golgi non ha figli, mentre Ramón ne ha ben 7, viene spontaneo chiedersi come sia possibile che i due ricercatori arrivino a conclusioni così diametralmente opposte, pur utilizzando le stesse tecniche e gli stessi modelli. Sta di fatto che il mondo scientifico si divide in due. Da un lato i reticolisti con Golgi e dall'altro i cellularisti con Ramón. Un antagonismo che dura anni, fatto di botte e risposte sulle maggiori riviste mediche del tempo e che ha un epilogo assolutamente inaspettato. Ironia della sorte, nel 1906 la Reale Accademia delle Scienze di Stoccolma assegna a Camillo Golgi il Nobel per la medicina per la sua scoperta della reazione nera. Ma l'ambitissimo e prestigioso riconoscimento, che tra l'altro fa di Camillo Golgi il primo italiano a venirne insignito, è un ex aequo. E chi sarà mai l'altro illustre scienziato a venire premiato? Certo, proprio lui, Santiago Ramón y Cajal. I suoi studi sul neurone, effettuati proprio grazie alla reazione nera di Golgi, gli fruttano il podio insieme al suo antagonista. Cosa deve aver provato Camillo Golgi alla notizia? Impossibile dirlo. La sua reticenza, la natura schiva del suo carattere fanno sì che non si abbiano informazioni a riguardo. Possiamo immaginarci la gioia per il Nobel, ricevuto solo poche settimane prima di un altro illustre italiano, Giosuè Carducci. Ma chissà se Golgi gioisce poi tanto, sapendo di dover dividere il suo premio proprio con Santiago Ramón. E veniamo alla serata della premiazione, alla presenza della giuria del premio Nobel e dei Reali di Svezia. Golgi sta parlando della sua invenzione. La mia reazione nera mi ha consentito di verificare la presenza di una fitta rete che collega le cellule nervose tra di loro, che è possibile vedere ad una semplice osservazione con il microscopio. L'illustre collega mi perdonerà se lo interrompo bruscamente, ma non posso ascoltare simili affermazioni senza inorridire. Non esiste una rete di cellule. I neuroni sono elementi singoli, non collegati fra di loro, che si inviano impulsi di carattere chimico o elettrico. Uno scandalo annunciato, lo si potrebbe definire. Il primo incontro fra i due istologi si trasforma in uno scontro che fa parlare tutto il mondo accademico. Sebbene la teoria del neurone di Santiago Ramón y Cajal sia oramai accettata universalmente, avvalorata anche dall'uso dei moderni microscopi elettronici che hanno dato ragione allo spagnolo, la distanza con la teoria della continuità di Golgi si va sempre più riducendo. E questo l'aspetto paradossale della polemica Golgi-Cajal. L'intuizione di un collegamento tra le cellule nervose ritorna oggi ad essere citata a seguito di recentissimi studi sulle giunzioni comunicanti fra neuroni e neuroni. Benché i due studiosi non siano più tra di noi, la loro disputa appare accesa oggi come allora e rende le loro ricerche e le loro incredibili personalità più vive che mai. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.